Storiacce di Raffaella Calandra. Ci sono terre in cui anche una telefonata può mettere a rischio la libertà. Una telefonata con una richiesta di soldi e di coprirci le spalle, altrimenti ci avrebbero sparato. Chi ha paura per la propria famiglia, per l'incolumità dei propri figli. È cambiata la vita questa imprenditrice calabrese il giorno in cui i boss hanno cominciato a minacciare lei, la famiglia, i figli. Dicevano che avrebbero sparato, che avrebbero rapito i bambini e da loro alla loro quotidianità ha dovuto fare i conti con le conseguenze di quella telefonata. Siamo in uno dei feudi più ostinati di 'Ndrangheta e per ragioni di sicurezza, dal momento che tutto sta avvenendo proprio in queste ore, non possiamo svelare l'identità di questa donna, che però non ha avuto dubbi e subito ha denunciato alle forze dell'ordine la tentata estorsione e conservato la sua libertà, perché ormai l'esperienza lo dimostra: chi paga diventa schiavo dei clan. E la libertà è il tema della sesta edizione di Trame, Festival dei libri sulle mafie a Lamezia, un'occasione per ritornare a parlare di una terra, la Calabria, rinchiusa da sempre nel suo cono d'ombra, dove la 'Ndrangheta può essere più scontata del voto, come a San Luca o a Platì, dove lo sfruttamento dei migranti nella piana di Gioia Tauro si incrocia con la fatica di vivere dei residenti in uno dei feudi delle cosche, tutte tappe di questa puntata di Storiacce, ma dove però ci sono anche realtà come quella di Lamezia, dove un imprenditore che denuncia non si ritrova più isolato ed emarginato come un tempo, e ora il coraggio di alcuni sta diventando la resistenza di molti. E da qui allora, dal cuore di questa terra di contrasti che è la Calabria, dove la mafia più potente al mondo, la 'Ndrangheta, domina la regione più povera d'Italia, parte questa puntata di Storiacce. Seguitela con noi anche sulla pagina Facebook di Storiacce, dove trovate anche dei video girati a Lamezia, a Rosarno, ma anche a Platì o a San Luca, o seguitela con noi anche su Twitter all'account Raff Calandra. Rientrare a casa con la paura che qualcuno ti segua, la prima cosa d'impulso è stata denunciare e chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Poi ti viene da dirti: me ne vado o resto? Ci siamo tutelati schedando le macchine più vicino possibile il luogo di lavoro per camminare di meno possibile a piedi, guardandoci bene le spalle, telecamere, videosorveglianza, comporta anche una serie di spese. Con la paura, questa imprenditrice calabrese ha imparato a fare i conti, ma sa di aver conservato la sua libertà, perché ormai l'esperienza lo dimostra: chi paga diventa schiavo dei clan, che iniziano col toglierti le ricchezze, poi le aziende e la casa, e con esse non solo la serenità, ma anche tutte le relazioni sociali, soprattutto quando si denuncia. In una terra come la Calabria, dove per generazioni è sempre stato normale mettersi a posto con i boss, chinare la testa, accettare le richieste di pizzo e pagare, una terra dove appunto ad essere emarginato era per lo più chi invece sceglieva l'altra strada, la denuncia. Io ero un'appestata in tutta Lamezia e anche dentro la mia famiglia, racconta Francesca Miscimarra, che ha dovuto lasciare la sua città perché le avevano fatto terra bruciata intorno. Lì per lì non riuscivo a capire cosa stesse succedendo, ma poi arrivata ad un certo punto, insomma, mi sono data di coraggio, di tanta forza, e decidetti di iniziare di liberarmi da quello che ero in quel momento circondata, no? Ecco, no. Lei decise di cominciare a denunciare perché? Sì, che cosa la portò a questa decisione? Perché la mia famiglia si stava proprio moralmente distruggendo. Io non capivo più chi era la mia famiglia, chi fosse la mia famiglia. Mio padre comunque era convinto che ne uscivamo vincitori, invece non fu così. Poi alla fine, difatti, mi diedero ragione. Ecco, la risposta del territorio dopo la denuncia com'è stata? Il territorio è stata negativa perché si sono allontanati tutti, non avevo più nessuno, ero da sola. Dopo la denuncia, tutte le persone che prima venivano a servirsi non sono più venute? Non avevamo più clienti, non avevamo più nulla, anche perché loro ancora non avevamo più commesse. Non si avvicinava nessuno, la gente aveva paura. La gente aveva paura di rivolgersi a voi perché voi avevate denunciato? Sì. perché io avevo denunciato, quindi non ero io quella che insomma aveva fatto la cosa giusta, ma bensì loro. Perché era normale invece accettare le regole e le imposizioni dei clan? Perché per il sud comunque è normale vivere non soggiogati dalla criminalità. Mi rivolsi a loro. A loro, all'associazione anti-racket? Sì. Che l'hanno guidato, che l'hanno accompagnata in tutto il percorso di denuncia. Il fatto che le persone non si rivolgessero più a voi e che quindi in un certo senso vi isolassero, quanto ha pesato sul futuro, diciamo, suo e anche della sua azienda? È tantissimo, tantissimo, finché poi alla fine decidemmo di partire, di lasciare la mia terra e di ricominciare in un'altra regione. Esattamente come vi sentivate? Mi racconti un po' che cosa vuol dire stare in un territorio dove vieni visto come quello diverso perché hai denunciato? Cioè mi evitavano, ci evitavano, mi puntavano il dito, eravamo da soli, non avevo nessuno con la quale, insomma, alla quale appoggiarmi. Mi evitavano in qualsiasi modo, non avevo più nessuno, anche in famiglia, cioè è successo anche con persone a me vicine, non solo con la gente estranea. E quindi, cioè, anche persone della stessa famiglia non condividevano la scelta? No, e la evitavano? Assolutissimamente no, alcune no, mi evitavano, è come se io avessi la peste, è come se io avessi avuto, cioè, e quindi questo mi faceva male, mi faceva soffrire, perché è come se io in quel momento pensavo tra me e me, ma ho fatto la cosa giusta, ero sicura comunque di aver fatto all'epoca la cosa giusta, ma allo stesso tempo mi venivano i dubbi, no? Perché dico, perché si comportano così le persone, no? Perché mi stanno emarginando, perché mi evitano? Io che ho fatto questo ho perso tutto, capisci il senso quello che voglio dire? Questa cosa mi fa tanta rabbia, mi fa rabbia veramente. Tu dici, no, mi fa rabbia la mia terra. Mi fa rabbia, sì, mi fa rabbia tanto, perché in questo momento sarebbe il momento giusto, no? Per rimettere tutto, tutti i tasselli che magari, tutto al loro posto, perché sarebbe il momento giusto questo, con tutti questi pentiti, tutto quello che sta succedendo, perché, cioè, voglio dire, non si è mai visto una cosa del genere, no? Non si è mai visto una cosa del genere, e invece la gente da noi non lo vuole fare, prima perché c'è tanta ignoranza, e poi perché comunque ti assicuro che vi fa bene vivere nella situazione, insomma, nella quale loro vogliono vivere, apparire, capisci? E questo mi fa male. Io non ho niente, voi avete questo, ma non avete la vostra dignità e la vostra libertà, questo sicuro. Quest'anno però la figlia è stata tra i volontari del Festival Trami a Lamezia sui libri di mafia, dove ora chi denuncia gli estorsori non resta più isolato, come ai tempi di Francesca, ma trova una rete di aiuto nelle associazioni anti-racket e in un contesto che sta cambiando. È uno dei tanti contrasti della Calabria, terra a più velocità, dove a San Luca, ribattezzata la cosiddetta mamma dell'andrangheta, cuore dell'Aspromonte, e dove i boss si ritrovano per decidere alleanze e strategie, ora 300 persone firmano una petizione per chiedere che non si torni alle urne, ma che resti invece il commissario prefettizio. Ma se andate a chiedere loro di 'ndrangheta e latitanti, nulla sanno. Si è prolegato per il bene del paese questo commissario. Il commissario è un uomo di legge. Se vado io come sindaco, domani mi sciolgono perché sono imparentato con lei. Vale la pena andare a votare. Lo Stato si risparmia pure i soldi delle votazioni. A questo punto, meglio il commissario. I primi mafiosi sono a Roma. Quali ndranghetisti? Una pecora nera c'è a tutte le parti. Può poco chiamarla pecora nera l'ndrangheta, no? No, io non sono un ndrangheta, io non capisco di ndrangheta. Io non... Oh. E da qui allora, da San Luca, riparte la seconda parte di Storiacce, ma andremo anche a Platichia. Invece, appena eletto un sindaco, dopo 10 anni, e andremo ancora anche a Rosarno. A tra poco. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema Digital Radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB+. Anche Radio 24 è in digital radio. Bye bye Europa? Londra decide, dentro o fuori. Il 23 giugno il Regno Unito decide se rimanere nell'Unione Europea o lasciarla dopo 43 anni. Comunque vada, il referendum britannico ha già prodotto un terremoto che scuote il progetto europeo. Fino al 25 giugno, Radio 24 vi racconta come si è arrivati a questo punto, chi rischia di più e cosa accadrà dopo il voto. Storiacce. Ci sono realtà dove il voto non solo non è scontato, ma ormai non è più neanche cercato. Mentre le grandi città si preparano ad eleggere i loro sindaci, nel cuore dell'Aspromonte si raccolgono firme perché invece resti il commissario e non si torni alle urne. Benvenuti a San Luca, nel cuore dell'Aspromonte, per tutti la mamma dell''Ndrangheta, qui dove in passato si portavano le persone sequestrate e dove ancora oggi i boss si ritrovano per decidere alleanze e strategie. E sai perché vogliamo meglio i commissari? Perché se va uno come me, e siccome siamo tutti parenti, posso avere un cugino, cioè un cugino che è inquisito, un cugino che è inquisito, dicono tu sei associato. E questa, l'amministrazione che hanno sciolto è stata un'ingiustizia. All'ombra dei pochi alberi di una piazzetta appena rinnovata, dopo i primi improperi alla cronista, un gruppo di anziani, solo rigorosamente maschi, snocciola con esempi concreti il senso della petizione inviata a Roma con 300 firme, gente senza grossi problemi con la giustizia, a dire il vero, perché non indica nuove elezioni. Almeno ora si puliscono le strade e gli acquedotti funzionano, spiegano. Una rinuncia alla democrazia, certo, ma per paradosso, secondo alcuni osservatori, forse anche un segnale positivo di interessamento ai bisogni della collettività, che è loquace ad intermittenza, bisogna dirlo. Parla ad esempio, e molto, quando elenca i servizi effettivamente mancanti in questo impervio introterra calabro, dai trasporti alla sanità, o quando lamenta di essere discriminata. Se va un pregiudicato a chiedere lavoro, andare dietro il camion della terza urbana, questi commissari dicono no, sei un pregiudicato. Che deve fare questo? Deve continuare a fare il pregiudicato? Abbiamo raccolto. I carabinieri hanno detto non prendere gente di San Luca a lavorare. Per quale motivo? Per quale motivo? Arrivano di fuori. Il motivo è che una ditta che vince un appalto porta già i suoi dipendenti, se ha bisogno di nuovi è pur sempre libera di assumerne, ma la questione è chi assume, operai scelti in autonomia o nomi piuttosto imposti dai clan? Dall'altra parte, qui in questo paesino di 4.000 anime, solo un piccolo emporio e un bar ad altri tempi, la fame di lavoro vero la senti subito, fatta eccezione dell'impiego nel corpo forestale, usato pure qui come in Sicilia spesso, come ammortizzatore sociale per giovani che altrimenti partono verso l'Europa per lavorare per lo più in ristoranti, come quello dove si consumò la strage di Duisburg, vendetta di una faida che proprio qui in questa piazza dove mi trovo ora ebbe inizio tempo fa, ma poi la comunità torna silenziosa se invece si parla di 'Ndrangheta o della decina di latitanti di qui, di San Luca, che portano i loro cognomi. Tutto allora è liquidato a frasi fatte. I primi mafiosi sono a Roma. Quali 'Ndranghetisti? Una pecora nera c'è a tutte le parti. Può poco chiamarla pecora nera la 'Ndrangheta, no? No, io non sono di 'Ndrangheta, io non capisco di 'Ndrangheta. Io non... Oh. Intorno a noi si forma ben presto un capannello di persone, ma quando comincio a chiedere di latitanti, boss, bunker o riunioni al santuario della Madonna di Polsi o ancora del parroco del paese indagato, tutta diventa solo slogan e bocche cucite e lentamente il gruppone si scioglie. Da una parte c'è chi ammette di non voler parlare di 'Ndrangheta perché i giovani di San Luca continuano altrimenti ad avere un destino segnato, mi dicono, dall'altra c'è chi cita il loro più illustre concittadino, Corrado Alvaro. Ma perché questo si deve crescere così? Perché è di San Luca, no? Dice tu, il tuo futuro è in carcere, no? Un lavoro non c'è. Quando finisce la scuola? Questo è abbandonato da tutti, no? Quando finisce la scuola? Giuseppe, quanti anni hai Giuseppe? 14. Tu sei a San Luca e senti il peso, grazie, arrivederci, il peso di un paese che ha un nome faticoso? No, io vivo in un paese tranquillo, quale nome? Il nome, anzi, carabinieri, a stati... Ormai San Luca... e c'è sempre questo marchio. Voglia che diciamo che c'è ancora dal bar. Ce l'hai indottato lo Stato. Una lapide, quella l'ho messa io, nell'81. L'ho presa da quella dal bar. Il dubbio che possa impadronirsi nell'ordine civile è che il vivere rettamente sia inutile. Tutto qua. Se non hai lavoro, non hai niente. Dal varo tu. Certo, e vedi che andiamo un personaggio che fanno spavento. Andiamo. Si guida per chilometri di curve e paesaggi incredibili, sopra letti ora aridi di fiumi che d'inverno si portano via ponti e autostrade strozzati dal troppo cemento, e si guida sotto lo sguardo del grande monolite di pietra K, ma anche di autisti di macchinoni potenti a cui non sfugge il volto nuovo, o di ragazzi su potenti scooteroni con cui fanno avanti e indietro tra le stradine vuote di platì. Altri 16 chilometri dalla statale ionica, altro comune Fortino delle Cosche e labirinto di bunker e tunnel. Qui ci sono voluti più di 10 anni di commissariamento per tornare a scegliere un sindaco, nonostante le perplessità sollevate anche in quest'ultimo caso, a dire il vero, dalla commissione antimafia. Ma ora la popolazione sta provando a riconquistare una normalità, marca il parroco Don Peppe Svanera, originario di Brescia e arrivato qua giù dopo anni in Colombia, prima cioè laddove la cocaina si coltiva, poi nel cuore del feudo dell'Andrangheta, la mafia che più al mondo la traffica. Rialzarsi. Arrivando a Bovalino mi sono trovato una scritta: quando Platì spara, San Luca impara. Io sono rimasto un po' così, come sorpreso, dico, ma allora sono ancora in Colombia. Venendo su per la strada, ho trovato il famigerato cartello che indica Platì, tutto bucarellato da tiri di pistola. Non ho trovato assolutamente l'ambiente che pensavo di trovare, anche per quello che ho letto. È sicuro che per me è stato come un blackout, qui non ho più visto niente, perché qui la realtà è diversa, è un'altra cosa. Sicuramente l'Andrangheta c'è, non ho potuto constatare a livello personale o diciamo così anche fuori, per quello che ho visto in questo periodo, non ho potuto constatare pressioni particolari, situazioni particolari, perché non le ho vissute. Non è che non voglio dire io no, la Platì non c'è l'Andrangheta, ma sicuramente c'è, però francamente non so cosa sia, come sia organizzata e cosa fa. E francamente non è che mi interessi molto, ma l'Andrangheta interessa soprattutto, se vogliamo, da un punto di vista culturale, capire questo fenomeno. Platì adesso, per esempio, è stata 10 anni senza sindaco, sì. Con commissari hanno appena eletto un sindaco. Mm-hmm. Ecco, che cosa significa per una comunità avere essere comunque un'eccezione rispetto alla regolarità di tutto il resto del paese che va alle urne? È successo in pratica dal 2003, quando c'è stato il 13 novembre del 2003, quando c'è stato quella operazione da parte dei carabinieri, operazione Marine, nella quale hanno portato in prigione 128 persone e poi ne hanno presi altri. Cioè, lì, per conto mio, un'operazione assurda, perché si è fatta contro un paese, contro una comunità, si è sparato letteralmente sul mucchio. Per me è stata una data storica per Platì, nel senso più negativo del termine, perché da allora questo paese, da quello che posso capire, non si è più rialzato. Finalmente, credo, si è rialzato con queste votazioni. Almeno sta tentando di rialzarsi. Pure l'Andrangheta nei decenni ha costruito, anche grazie all'ostentazione di una certa ritualità, il proprio consenso e una propaganda alimentata pure dall'etimologia del nome, come ci racconta Giorgio Girano, professore all'Università di Trento, voce delle nostre mitiche storiacce. Mitiche storiacce. Secondo alcuni, il nome 'Ndrangheta deriva dalla parola greca andragasia, una parola che indica l'uomo valente, e in greco si dice appunto aneragathos. Forse non è vera questa spiegazione, ma resta la sensazione che l'Andrangheta calabrese, pur ora proiettata nella postmodernità dei suoi traffici internazionali, conservi qualcosa di irriducibilmente arcaico, forse di greco. Per esempio, appunto, l'idea della valentia, dell'onore da difendere a ogni costo, la legge arcaica della faida e della vendetta di sangue, diceva il poeta greco Archiloco 7 secoli prima di Cristo, una sola cosa grande io conosco, ricambiare chi mi fa male con terribili mali. Studiosi illustri come Luigi Lombardi Satriani hanno tentato un'antropologia della mafia. Il magistrato Roberto Scarpinato ha indagato la strana religiosità dei mafiosi, che per esempio nella Calabria interna si ritrovano intorno al santuario della Madonna di Polsi. Lo studioso Augusto Cavadi parlava del dio dei mafiosi come di un dio cristiano corretto però dal paganesimo greco, un dio padrino, custode delle leggi mutabili di un mondo impregnato di fatalismo. Gianfrancesco Turano, un giornalista esperto di mafia ma anche narratore, fa invece dire a un personaggio ndranghitista del suo romanzo Contrada Armacà: noi calabresi siamo greci. I greci non hanno la nazione, non hanno la monarchia, hanno la polis. Ogni polis è uno stato a parte. Insomma, un'idea di polis, cioè la città-stato dei greci, non come una comunità pubblica al di sopra delle fazioni, ma come un gruppo chiuso con le sue regole ferree. Un'idea che in effetti era anche greca. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, dove troverete anche i video girati in diretta da Platì, da San Luca o da Rosarno ancora, ma potete seguirci anche su Twitter all'account Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto!